Vede, secondo l'antica filosofia della mobilità, ci vogliono molti anni per raggiungere l'equilibrio perfetto tra forza ed eleganza. Tranne per Peugeot 3008 in pronta consegna e con 9.000 euro di vantaggi. Parti subito e senza pensieri, con il SUV iconico dal carattere deciso, linee raffinate e l'innovativo Peugeot e-cockpit. Valido solo per vetture in stock, con finanziamento iMove e immatricolazione entro il 31 dicembre 2023. Scopri di più su Peugeot.it. '66, gradini di cemento, stazione d'autobus, New York. Ingegnere specializzato in contromisure radar aeree, tecnologie antisottomarino. Background material, conceptual, TV gaming display, scrive. 1. Intento. L'obiettivo dell'invenzione è di fornire un'ampia gamma di apparecchiature a basso costo che possono essere utilizzate da un operatore per comunicare con un normale televisore in bianco e nero e a colori, di quelli presenti in commercio e non modificati. Il collegamento al televisore deve essere garantito tramite connessione diretta al sistema video con un collegamento alla presa dell'antenna, sostituendo così l'ingresso del segnale delle frequenze TV modulando un oscillatore RD che funzioni ad una delle numerose frequenze di canali standard della TV e sintonizzando il televisore su quel canale. Un canale denominato LP. LP. Let's play. Let's play. Giochiamo. Giochiamo. 2. Considerazioni su varie classi di giochi. Al momento vengono visualizzate le seguenti classi generali di giochi. Visualizzate, scrive Ralph Baer. Visualizzate. Visualizzare. Visualizzare. La mente di Ralph Baer che visualizza come su di uno schermo. 1966, stazione d'autobus, New York. Ricevere dati trascendenti, come da una musa divinità col disegno di interrompere la subordinazione delle coscienze planetarie dal gioco della TV, per una nuova voce, Magnavox Odyssey, l'odissea della grande voce del videogioco, ad azzittire quella della televisione, Ralph Baer, ingegnere specializzato in contromisure radar aeree, tecnologie antisottomarino. Il videogioco quale interferenza e contromisura alla televisione, televisione, che tace per la prima volta subordinata al gioco controllo del Raspberry. 40 milioni di potenziali televisioni pronte ad essere subordinate da operatori chiamati giocatori degli United States of America. Ralph Baer. Ralph Baer. 8 marzo 1922. Ralph Baer. 6 dicembre 2014. Ralph Baer. 1966. Ralph Baer. Di cemento. Stazione d'autobus. New York. Ralph Baer. Ralph Baer. L'inizio. E con questa meravigliosa intro di Luigi Marrone avete già intuito quello che poi in realtà abbiamo annunciato anche in precedenza su Facebook e sui social network, ossia questa puntata speciale su colui che possiamo tranquillamente definire l'inventore dei videogiochi, ossia colui che ha aperto praticamente questo affascinante mondo nel quale ci siamo tuffati tutti per tantissimi anni, alcuni di noi ancora in realtà ci sono rimasti immersi dentro. Per parlare per fare questa speciale puntata di archeologia videoludica, ovviamente in crossover con archeologia informatica, non potevano ovviamente mancare i due archeologi informatici, ossia Carlo Sant'Agostino. Eccomi qua. Buonasera Carlo. Ciao a tutti. Ciao. Hai mangiato? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. E Stefano Paganini. Saluti a tutti. Io non ho ancora mangiato. E invece deve mangiare, esatto, insieme come me. Lo diciamo per rinfacciarla questa cosa, no? Lo facciamo ovviamente con grande simpatia. Allora, Roberto Bertoni, per iniziare, insomma, questa è una puntata ricca poi di contributi, quindi anche il nostro apporto in realtà sarà un apporto a ruota libera, anche legato a quello che sappiamo e quelli che sono anche i nostri ricordi e soprattutto i nostri pensieri, riguardo ovviamente a questo personaggio che è scomparso pochi giorni fa, anche insomma una signora e soddisfacente veneranda età. Ci ascoltiamo Roberto Bertoni, che ci fa ovviamente la biografia di Ralph Beer. Ci sono persone che ci lasciano senza rumore, senza clamore. E solamente quando non ci sono più ci accorgiamo di quanto hanno fatto per noi e per la nostra vita. Sono un po' come delle pagine di un libro di storia che nessuno ha mai letto. Perché diciamolo, Ralph Baer, prima del 6 dicembre 2014, giorno della sua dipartita, non è che fosse così conosciuto più, anzi. Probabilmente era meno furbo di Nolan Bushnell, meno carismatico di Steve Jobs e di questo ingegnere tedesco, nato l'8 marzo 1922, non importava proprio a nessuno. E dire che la sua vita, come molti ebrei nati all'inizio del Novecento, non fu per niente facile. Costretto a emigrare a soli 16 anni con la sua famiglia negli Stati Uniti, il tutto per sfuggire al nazismo, ottenne nel 1949 la laurea in ingegneria televisiva. Eh sì, in fondo anche gli ingegneri progettano televisioni. La sua vita lavorativa, diciamo, rimane quasi anonima, rimbalzando fra varie società fino ad arrivare là dove avrebbe cambiato la storia. Quella Sanders Associates che l'assunse nel 1987. Dopo varie traversie, legali e non, di cui parleranno sicuramente i miei esimi compagni, di lui si perdono le tracce fino all'inizio degli anni 2000, quando sull'onda della riscoperta dei videogiochi e delle loro origini, qualcuno si ricordò del suo importante ruolo svolto alla nascita del nostro passatempo preferito, contribuendo così all'incetta di premi e riconoscimenti di cui fu protagonista nell'ultima decade. Giusto per ricordarvene qualcuno, potrei raccontarvi del 2005, quando vinse il Legend Award, nel 2006, quando vinse la Medaglia Nazionale per la Tecnologia e l'Innovazione, o del 1 aprile 2010, quando fu introdotto alla National Inventors Hall of Fame. Insomma, un destino forse un po' beffardo, che in un momento di successo o di scoperta di un meglio nuovo non lo premiò abbastanza e non portò la sua memoria a quelli che poi saranno stati i posteri, noi stessi. Come detto in apertura, infatti, lo scorso 6 dicembre si è spento, senza clamore e senza la luce di quei riflettori che forse avrebbe meritato. Per ricordarlo vorrei lasciarvi però un pensiero di Steve Wozniak, un altro dei grandi di cui probabilmente ci ricorderemo troppo tardi. Lui stesso, in una sua intervista, disse: non posso ringraziare abbastanza Ralph per quanto ha fatto per me e per tutti gli altri. E con questo è il mio doveroso e spero interessante saluto alla truppa di archeologia videoludica, nella speranza di poter tornare presto fra di voi. Come ben sapete, non vorrei tagliarvi oltre con le mie vicissitudini familiari, però il mio affetto, il mio ricordo è sempre qua presente e soprattutto la mia voglia di scoprire insieme ai miei amici quello che è stato il nostro passato, o meglio il passato, il nostro passatempo preferito. Buona archeologia a tutti! Allora, dicevo che siamo pieni di contributi, nel senso che questa puntata raccoglie tutte quante le rubriche tipiche di archeologia, archeologia videoludica, soltanto che in questa versione molto smart, molto veloce, perché come sapete, insomma, la cosa è accaduta di recente. Per rendere giustamente omaggio appunto al personaggio, abbiamo cercato di fare questa cosa molto velocemente. Allora, Stefano, parliamo di un ingegnere televisivo, di un inventore, un grande inventore, insomma. Parliamo di un profugo, innanzitutto, perché parliamo di tutto un profugo. Parliamo di un profugo nel senso che che non è il solo. Che non è il solo, va bene. No, non è il solo, infatti. come tanti della storia dell'informatica. Come tanti, veramente, Carlo, no, della storia dell'informatica. Sì, sì, sì. Questo signore, appunto, come hai detto tu, morto alla veneranda età di 92 anni, nasce in Germania nel 22, nasce in un momento non felicissimo per una persona che non solo è tedesca ma è di origine ebraica. E qui già comincia a cambiare. Anche qui ricorda qualcuno, anche in ecco, esatto. E, sì, sì. E già comincia male in Germania, per cui già in tenera età comunque volano, tutta la sua famiglia vola, come è capitato molto spesso, negli Stati Uniti. Qui lui comincia a diventare americano in tutti gli effetti, nel senso che serve anche negli Stati Uniti, cioè partecipa alla Seconda Guerra Mondiale con l'esercito degli Stati Uniti. Successivamente comunque diventa un ingegnere televisivo, per cui era a fine degli anni 40, inizio degli anni 50, era una specializzazione un po' come poteva essere l'ingegneria nucleare negli anni 60, cioè era quanto di più promettente per il mercato. E qui in realtà ti dà l'idea che, come disse credo Hemingway, un uomo fa una cosa praticamente, cioè gira intorno a un'idea per tutta la propria vita. Evidentemente lui col televisore doveva avere un rapporto decisamente particolare. Si guardava il televisore e dice: io con sta scatola ci devo fare qualcosa, come diciamo noi a Milano e a Brescia, vero, esatto, Carlo? A Brescia, esatto, soprattutto a Brescia. E il punto è questo. Quello che il contributo dei Bear, noi nelle note di archeologia informatica metteremo alcuni video che ho ritrovato online e che sono molto belli. Purtroppo sono molto tardivi, nel senso che molti di questi video sono veramente degli ultimi anni. Lui stesso ha ricevuto solo, tra virgolette, nel 2007 un riconoscimento da George W. Bush. Tra l'altro lui nel video ricorda che ha ricevuto il riconoscimento il lunedì, mentre invece il venerdì prima era morta la moglie. Anche lei è ultra ottantenne. In realtà è una persona, come dire, è un bambino di 92 anni che è morto, se dobbiamo dire la verità. Sì, perché poi io ho visto anche da molte foto, molti articoli, anche da diversi video, che insomma fino a, continuava, magari non, però insomma la passione per lo smanetta, quello che oggi noi chiamiamo lo smanettamento. Il tinkering, lui è, sì. Adesso Carlo poi introdurrà tante altre cose, io ho due o tre spunti, sì, ma... Io parlerò poi nel dettaglio per quanto riguarda proprio la storia del videogioco. Del Magnavox, sì. Esatto. Abbiamo diciamo vari interventi su questa cosa. Di Bayer nella storia del videogioco. Bayer è un inventore grandissimo, ha fatto, però dopo parlando nel dettaglio, dopo l'invenzione del Magnavox, poi nella storia precisa del videogioco non è che è rimasto un grande inventore, gioco, ha inventato di Simon, il Simon. Esatto, esatto, della Milton Bradley. Cioè Simon, che io ci ho perso veramente tantissimo tempo quando me lo regalano da bambino, perché sembra poi oggi magari ci pensi, no, cioè, ma che vedi, però che tutte queste cose hanno un mnemonico, però in realtà era bello, era comunque appassionante il fatto di Simone, però era molto semplice, cioè poi perché sì, entrambe le cose, visto che sono due oggetti più noti, anche se il Simon e altri giochi, perché comunque se si vede il video che metteremo nelle note, sono diventato tanti giochi elettronici, ecco, sono tutti secondo me caratterizzati da una grandissima, gli americani chiamano ingenuity, cioè una semplicità progettuale e anche del gioco, che però nel caso del Pong, così come nel caso del Simon, ancora oggi noi accendiamo la console o il giochino e ci giochiamo. Cioè, no, ma non solo, facciamo riferimento a tantissimi videogiochi ultramoderni, dove sì, vediamo motori grafici di grandissimo impatto visivo, roba del genere, dove ci sono dei quick time event che spesso e volentieri sono strettamente ricollegabili magari proprio alla meccanica del Simon nella sua più basica semplicità, addirittura proprio il primo Mass Effect, tanto per che insomma è un gioco che ci diamo spesso, aveva un minigioco quando tu dovevi sbloccare determinate cose che era niente altro che il Simon, quindi sì, in realtà questa semplicità poi è perché sono giochi, se vogliamo vedere anche in questo senso, cioè un grande inventore di giochi, sì, giochi e giocattoli. Giochi e giocattoli, sì, bravo, sì. Giocattoli, giochi e giocattoli. Perché dopo se si va a vedere nel video, sì, la sua stanza è sempre quella di un bambino. Quando poi mi lascerete libero No, allora aspetta, allora facciamo così. Starte perfetto. Ruota libera, però. Facciamo così, Carlo. Guarda, proprio perché in realtà la biografia l'abbiamo sentita, quindi sappiamo insomma più o meno di che cosa, di chi stiamo parlando. E vi suggerisco comunque magari anche di fare approfondimenti su internet. Poi nella puntata che verrà pubblicata su Archeologia Videoludica ci sarà il link anche al post che sarà pubblicato su Archeologia Informatica, perché come vi ho detto questa è una puntata in crossover e Stefano sicuramente metterà anche moltissimi elementi, molti link come fa di suo solito su Archeologia Informatica, quindi avrete modo di approfondire il personaggio. L'unica cosa che dico prima di lasciare poi la palla anche a Carlo e poi ovviamente rimparlarla poi con Stefano e parlare adesso proprio delle invenzioni anche in senso cronologico, è che a fine puntata ci sarà la classica Kits and Google, che è la rubrica che fa sempre Marco Gualdi, dove cercheremo anche delle curiosità, delle cose particolari, hacking o cose strane che magari sono state fatte relativamente alle invenzioni di Ralph Beer. Però poi ci sarà anche la retro rassegna stampa che fa di solito Morgan, che è completamente dedicata a un solo articolo, una grande intervista che è stata fatta che è stata pubblicata sulla rivista Videogiochi, ora non ricordo bene il numero, poi metteremo anche questo ovviamente nelle note dell'episodio, dove lui racconta anche il suo rapporto con Bushnell e altre persone e quanto lui ha dovuto combattere per essere anche riconosciuto come il vero inventore dei videogiochi, perché sì, ovviamente bene, insomma, su questo mettiamo adesso specifichiamo, poi nel caso storico mettiamo un po' di puntini sulle i. Ok, vabbè, infatti, però ecco, è un'intervista che comunque fa piacere ascoltare, perché è stata riassunta ovviamente da Morgan, perché comunque ci fa conoscere anche un po' il personaggio, no? Quindi personaggio che sì, magari noi abbiamo citato tante volte, però poi in realtà magari conosciamo molto meno di quanto si meriterebbe. Allora Carlo, iniziamo a parlare delle fabbricazioni, prima di parlare delle fabbricazioni, come ti dicevo, vorrei fare un mini introduzione, mettere due puntini, giusto perché si è parlato della biografia eccetera, lo stiamo giustamente celebrando, io ecco lo chiamerò Ralph Baer, uno perché è tedesco, due perché sono italiano e la pronuncia mi viene male, ma forse c'hai ragione tu, essendo sicuramente americanizzato Baer, per cui esatto. Comunque poi vabbè, il chiarimento che voglio dare, ecco, giusto per essere come mio solito abbastanza storicamente esatto, quindi dal punto di vista proprio archeologico, il videogioco non l'ha, se vogliamo essere precisi, non l'ha inventato Ralph Baer, cioè in generale il videogioco come tante invenzioni moderne ha più padri, ok, sì. Non ne ha uno. Non ne ha uno solo. Questo è perché tu sei amico di Bushnell. No, Bushnell soprattutto poi proprio non ha inventato. No, scherzo. Volevo fare una battuta simpatica per. Ah, già c'è che ho la foto con Bushnell, hai ragione. Scherzo, l'ho capito adesso. Come al solito io arrivo tardi. No, allora per essere precisi, cioè il videogioco ha parecchi padri, anche perché. Una cosa che dobbiamo specificare anche per introdurre poi il concetto dei videogiochi che ha inventato Baer è questo, che adesso per noi è chiaro cos'è un videogioco, ma se torniamo indietro nel tempo, cos'è un videogioco? La definizione esatta di videogioco non è così precisa. Perché adesso per noi un videogioco è qualcosa che ha dietro un computer o comunque una logica e che interagisce in un certo modo con un video di qualche tipo, che adesso non è più neanche il tubo catodico. Però se torniamo indietro nel tempo, un videogioco non era così facile da definire. Uno, perché i televisori erano un'invenzione abbastanza recente e ce n'erano pochi. Comunque ce n'erano pochi e un oggetto in casa. I primi computer non funzionavano con i televisori. Per aspettare che i computer funzionassero con i televisori dovremmo passare negli anni 70, quindi noi stiamo parlando di qualcosa di precedente. In realtà sin dalla nascita dei primi computer, dell'informatica, si è iniziato subito a pensare che con i computer si potesse giocare, ma infatti questi li possiamo chiamare computer game dell'inizio, ok? Quindi giochi con il computer, che però molto hanno a che vedere con i videogiochi attuali, mentre in realtà il videogioco che ha inventato il buon Baer non ha un computer, è completamente analogico. Certo. che dirlo adesso è una cosa che uno dice, ma cosa vuol dire? Quindi no, cercherò di spiegarla. Ne abbiamo parlato in vecchissime puntate di archeologia videoludica, proprio quando abbiamo fatto un po' tutto l'escurso sugli albori. Quindi per dire, cioè, poi magari adesso non approfondisco tanto, perché per fare proprio la storia del videogioco bisognerebbe fare una puntata a parte, però primissimi videogiochi erano giochi tradizionali fatti sui primi computer, no? Il Tris, l'Oxo per ricordarsi, Nimrod sul Ferranti in Inghilterra, gli scacchi, ok? Però se vogliamo vedere il primo videogioco che in qualche modo ricorda il videogioco attuale, c'è l'oscilloscopio. L'oscilloscopio era anche lui analogico, era il Tennis for Two di Guy Botnan, quello non aveva un computer dietro. Ah, pensavo che stavi parlando di... non avevo agganciato Sto parlando di Space War. Del 60 è proprio il primo videogioco come adesso conosciamo il videogioco. Per quelli che sono i videogiochi come li concepiamo. Esatto, però per dirti, Baer non aveva la minima idea di cosa fosse, non aveva mai visto Space War, lui non sapeva neanche che esistesse, fosse esistito, ok? Questo lo ammette lui però nelle sue interviste. Certo che lo ammette, ma è logico, perché lui era un ingegnere televisivo, non conosceva i computer. E lui ha semplicemente avuto questa intuizione, ha detto, ma col televisore, oltre a vedere la televisione, cosa si può fare? Si può giocare con la televisione? Sì, inventiamoci un modo per giocare con la televisione. E quindi utilizzando l'elettronica discreta, quindi non circuiti logici, ma elettronica discreta, che... Scusa Carlo, cioè il punto è questo, siccome ne parlavo recentemente anche con l'amico Piero Todorovic, che di elettronica se ne intende, che salutiamo. In realtà alcuni giochi, non ti interrompo più, ma alcuni giochi successivi erano in TTL, cioè erano fatti con dei cippini, io sto parlando proprio della sua idea. Questa invece erano in diodi, cioè erano diodi resistenze. Ma cosa vuol dire? Cerco di spiegarlo alla persona, come, perché sai, se dici diodi molti dicono, beh, cosa vuol dire? Cerchi di spiegarlo a Simone Pizzi. Cerco di spiegarlo a Simone Pizzi, cioè cosa vuol dire? Allora, è come parlare di un qualcosa che è un computer che ha una programmazione, quindi di un gioco su computer, che è una cosa, e di un gioco normale, come può essere il ping pong con le racchette e la pallina, ok? O con un sasso e due legnetti. Allora, il videogioco inventato da Baer, che era un TV game, un gioco per la televisione, un gioco sulla TV, è più simile ai legnetti col sassolino o alla pallina normale. Certo, cioè, cosa vuol dire? Non c'è nessuna logica, c'è semplicemente un'elettronica che disegna un quadrato sullo schermo. Ok? E c'è un'altra elettronica che ne disegna un altro di quadrato, che quando questi due quadrati in qualche modo si scontrano, lui lo fa rimbalzare. Il circuito elettronico lo fa rimbalzare dall'altra parte. Esatto. Questo vuol dire che non c'è punteggio, non c'è player one e player two, non c'è niente. Cioè, è solo un modo. Solo logica cablata, diciamo. Bravissimo, è solo un modo di usare la televisione. Per giocare, esatto. Ma per giocare come giochiamo con un gioco normale, quindi non un videogioco, ma un gioco sulla TV. La definizione TV games, infatti, è rimasta poi per lungo tempo, cioè i primi Pong, le prime cose, venivano definiti proprio non video games, ma TV games. La trovate anche nella letteratura dell'epoca, eccetera. Il concetto di definizione è, ci dice e non ci dice, diciamo che più quello il discorso che hai fatto prima adesso, la grande differenza tra il gioco elettronico, poi alla fine la manifestazione è che è un gioco digitale, quindi ovviamente scusate solo un'interruzione, vai. Quello che dice Carmi, il riallaccio, io una delle note, ho trovato i suoi appunti del 66, primo settembre 66, poi Carlo li contestualizza. I suoi appunti, dopo metteremo il link, perché i suoi appunti adesso sono bellissimi, conservati sono stati donati al Museo dello Smithsonian insieme al Brown Box. Sono conservati allo Smithsonian e sono consultabili anche online dagli archivi. Butto lì questa cosa, poi non interrompo più Carlo. Allora, lui ha messo punti da là. Ha messo punti da A all'H, cioè ha messo circa 8 punti con i possibili giochi che gli erano venuti in mente. Esatto. Cioè già da subito. Uno di questi, ad esempio, era il card game. Quindi lui diceva simuliamo un mazzo di carte. Lo skill, lo sto leggendo in questo momento, sarebbe quello di riconoscere, di avere la memoria, è praticamente il memory game con le carte. Memory game? Sì, che poi è uscito sul Maniamoc, infatti, quel memory game con le carte. Cioè lui aveva già 8 giochi in testa, giochi artistici, board games, action games, bond chance games, cos'è questo qua? Games monitoring, sports games, cioè ci sono già tutte le tipologie di giochi e stiamo parlando del primo settembre 66. Esatto, lui aveva pensato di poter giocare col televisore e in qualche modo si inventava i giochi che si potevano fare sul televisore, quindi in qualche modo lui pensava al gioco ma non pensava al fatto che poi questo con i computer sarebbe stato possibile fare mille di più. Altre cose, quindi certo. Di più, quindi rendere anche intelligenti questi giochi, che capissero loro le regole. Lui pensava semplicemente di fare il gioco e poi erano le persone che davano le regole, certo. E il primo Odyssey infatti funzionava in questo modo. Il discorso importante per il primissimo videogioco che fece, il gioco sul televisore, era un quadrato, perché grazie ai suoi collaboratori, perché poi fu lui ebbe l'idea, poi ci furono con lui due importanti collaboratori che lavoravano alla Sanders. Ecco, un'altra cosa, lui che è già stata detta, però lui lavorava alla Sanders, che è un'azienda che si occupa di inventare cose che poi vengono vendute. Di solito la Sanders le vendeva all'Army americano, all'esercito americano, oppure venivano vendute ad altre aziende che poi venivano diventavano prodotti e la Sanders guadagnava dai diritti pagati su questi prodotti. Tant'è che lui alla fine della sua vita aveva circa 140-150 brevetti che andavano dai videogiochi a un sistema di monitoraggio per sottomarini, tanto per dire. Esatto, perché la Sanders faceva cose militari. La Sanders Associates è proprio un'azienda che come idea ha quella di fare ricerca e sviluppo, serbatoio di crani, brevetti, bravissimo, e poi venderli. Okay, serbatoio di cervelloni. Quindi Bayer ha questa idea con i collaboratori nel reparto di ricerca e sviluppo della Sanders, trova il modo di far disegnare qualcosa sul televisore, quindi utilizzando elettronica discreta. Il primo gioco si chiamava Tag, cioè che sarebbe celai, ok? Cioè c'è qualcuno che corre, tu lo insegui, lo devi prendere, quando l'hai preso hai vinto. Ok, questo è il primissimo gioco, si chiama Tag, cioè c'è un quadrato che gira sullo schermo, l'altro quadrato lo deve prendere, quando l'ha preso ha vinto. E il non c'è per PlayStation 4. No, no. Questo Tag è importante perché poi nel 1972, cioè quando poi ormai i diritti, il copyright era stato messo, i diritti erano stati riconosciuti dalla Magnavox, acquistati, ed era uscito il prodotto Brown Box Prototype, era diventato il prodotto commerciale l'Odyssey, cioè la prima console, se vogliamo, della storia. Mm-hmm. Su Popular Electronics esce, che era una nota rivista americana di elettronica, esce il progettino di come farsi il Tag, no? questo gioco operativo, come costruirsi in casa per gli smanettoni dell'elettronica. Questa rivista sulla quale hanno pubblicato di tutto. Rivista sulla quale su Popular Electronics c'è di tutto. Ma soprattutto grazie a questo articolo su Popular Electronics, e poi dopo un paio di anni esce anche come farsi il Pong, sempre analogico, si diffonde nel mondo con le varie edizioni locali del Popular Electronics in Inghilterra, in Germania, in Italia anche. Mm-hmm. E in Europa iniziano a essere prodotti i primi cloni, diciamo, le prime console domestiche che richiamano l'idea del Magnavox Odyssey e del Pong di Atari, che da lì a poco la storia è parallela, è leggermente diversa. Non l'approfondiamo adesso, comunque diciamo che poi, anche se l'invenzione, l'idea originale di Bayer, poi quello che la porta al successo mondiale è il tuo amico Nolan Bushnell, ben conosciuto, esatto, Nolan Bushnell, che diceva sempre: non è importante chi ha l'idea, ma chi la realizza. Bravissimo. Peccato che io non sono proprio d'accordo sempre su queste cose, però insomma, comunque il fior di soldi li ha presi, ma per carità, grazie a li ha presi anche grazie a Bushnell, perché poi Bayer, una delle cose che fece con la Sanders, cioè uno dei suoi lavori, se non forse il lavoro principale che fece dal 72 fino credo a metà degli anni 80, era far causa alle aziende produttrici di console e di videogiochi. Le fece praticamente a tutti, all'Atari per prima, ma poi lo fece alla Mattel, lo fece a decine e decine di costruttori in giro per il mondo di Carlo, console, scusami, di si può dire una cosa a questo punto? Perché oltre a quello che stai dicendo tu, rileggendo un po' tanti link, è che lui più che inventare il mercato dei videogiochi ha inventato il mercato dei diritti sui videogiochi. Perché alla fin fine più o meno, ma è lui stesso a dire: ho vissuto molto in mezzo agli avvocati, in mezzo ai lawyer, che probabilmente detestava anche perché aveva a che fare con della gente. Piccolo dettaglio: da quando lui ha cominciato a lavorarci, scopro tra l'altro che lui scrive nel suo diario che il 7 maggio del 67 ha giocato il suo primo videogioco, che deve essere il Tag, a due giocatori e ha perso. Io sono nato il 4 maggio del 67, per cui non ti dico cosa provo in questo momento. E quello che lui in realtà ha tentato, lui dice che dal 68 al 70 lui è passato due anni con Bill Harrison, che era l'altro ingegnere suo, esatto, sottoposto alla Sanders. Bill Harrison è proprio quello che ha inventato il circuito per far apparire quadrato sullo schermo, e abbiamo anche una parte di un'intervista a Bill Harrison che metteremo nelle note, l'ho trovata, e lui stesso parla di Bayer, perché poi mi interessava, credo che interesserà anche a voi, avere un'opinione di Bayer vista da qualcuno che in realtà gli ha lavorato tanto vicino. Harrison adesso ha anche lui la sua età, Molire, ma era molto più giovane di Bayer, e dice: la prima cosa che ci ha fatto, ci ha messo me e l'altro Bill in una stanza per 5 giorni a giocare con sto brown box. Allora, nel 68 doveva la Game Room, la chiamava. Ecco, la doveva sembrare una roba da pazzi, cioè due, tre persone adulte davanti a un televisore con degli scatolotti marroni col nastro. Dopo, Poi lui aveva delle altre idee incredibili, perché a quell'epoca, poi prima di vendere il progetto alla Magnavox, in realtà loro lo portarono avanti il progetto della Brown Box, e addirittura era a colori, e addirittura volevano farla diventare una specie di set-top box che permetteva di giocare con la cable TV, la TV via cavo americana, tra una casa e l'altra. Sì. Quindi era una cosa. Infatti loro in quei due anni andarono in cerca di chi produceva i televisioni, per cui le marche erano la RCA, la Zenith, la Silvagia e la Magnavox. Alla fine la RCA è quella che ci ha perso, perché la RCA è quella che non ha accettato il contratto. Cioè Magnavox in sostanza ha vinto, tra virgolette. Ultima nota, io ho trovato un articolo, e qui Harrison che dice: al tempo noi non eravamo odiati, che è divertente come cosa, non eravamo odiati o successivamente da chi faceva i coin up, da chi dopo ha fatto i coin up e i videogiochi così, ma al momento eravamo odiati dall'industria cinematografica. La RCA stessa era collegata ad Hollywood, probabilmente anche la Magnavox, ma in funzione minore, perché allora veniva visto come un distorcimento della realtà il fatto che la gente stesse a casa a giocare piuttosto che andare al cinema, non andare a giocare al coin up, agli arcade. Tanto, esatto, cioè era folle la visione, visto come funziona al giorno d'oggi, perché senza il connubio tra videogiochi e cinema, con il continuo scambio, non avremmo avuto un Lara Croft sia come gioco che come blockbuster al cinema. Cioè ormai lo scambio soprattutto nel secondo caso le potevamo fare tranquillamente a meno, comunque tranquillamente a meno, insomma. A parte Angelina Jolie sicuramente no vabbè, però ce ne sono tanti prima anche di connubi cinema TV che come sappiamo ragazzi, poi insomma è un episodio che sta lì ancora, cioè, vabbè, poi anche su questo ci torneremo a parlare. Quello che mi piace molto di questo approccio comunque che abbiamo preso, ed era forse proprio quello che volevo tirare fuori da questa puntata, non è tanto parlare del Magnavox, della Brown Box o cose che comunque poi alla fine sono state già trattate in archeologia videoludica, perché chiaramente avendo percorso un po' dalle origini più o meno in modo corretto magari tutto quello che è stato il cammino delle macchine, è bello comunque parlare anche del personaggio, degli eventi, delle situazioni che probabilmente a suo tempo nella prima e seconda stagione non abbiamo fatto. Quindi mi piace proprio questa conversazione che state approcciando, insomma, perché è bello. Voglio dire solo una cosa riguardo a prima, quando hai accennato di Bushnell, in realtà Computer Space è il primo videogioco commerciale realizzato da Bushnell, che è ispirato appunto al Space War. Quindi in realtà l'idea del videogioco Bushnell l'ha prese non da Bayer ma da Computer Space, poi ricadde sull'idea di Bayer quando si rese conto che la complicazione del videogioco era un problema per diffonderlo. Certo. Quindi l'idea di Pong venne dicendo appunto ci vuole un gioco molto più semplice rispetto al Computer Space, che era troppo complesso. Ma forse questo l'avevamo già accennato anche in un'altra puntata. Adesso mi io volevo buttare lì una cosa, scusate. Sì. Una delle opzioni dei primi videogiochi, delle prime console, soprattutto dei primi cloni Pong, io ne ho qualcuno, è Light Gun. Allora, Light Gun, sì. Che cos'è? È semplicemente un'arma, una pistola finta tipicamente di plastica, con un fotodiodo, un fotosensore, che va a beccare la linea di scansione sullo schermo e ovviamente sparando, puntando sullo schermo, si va a beccare un punto esatto all'interno del sì. fotogramma, e lo si comunica alla console per videogiochi. Quindi tiro al piattello, vari cose di caccia, tutte le possibilità ludiche che ci sono. E tra l'altro è una cosa che purtroppo al giorno d'oggi, per chi fa collezione, è un disastro, perché non funziona ovviamente sui display a cristalli liquidi, ci vuole un TV col CRT. Piccola nota a margine, che non è da ci vuole un TV con CRT, beh dipende, ce ne sono alcuni che funzionano, se il sensore proprio solo di luce luminoso funziona anche con il tubo catodico. Io ho avuto pessime esperienze perché ci sono diverse versioni dei sensori, che quelli più vecchi comunque erano proprio, cioè richiedevano il CRT. Comunque anche questa è un'idea di un gioco classico che esisteva già, perché era questo sensore luminoso per fare la pistola per colpire i bersagli era già molto usato nei giochi elettromeccanici, sì, quelli che erano molto che diffusi, sono bellissimi, tra cui anche vi ricordo quello della Nintendo da casa, il primo sì. Duck, cioè, era fatto così, cioè c'era un proiettore di Duck Hunt che metteva proiettava delle anatre luminose sui muri, e tu con questa pistola, che era semplicemente un sensore che se tu quando cliccavi l'interruttore, cioè sparavi, vedeva la luce, era punto, se vedeva il buio non era punto. Quindi anche questo era semplicemente la trasposizione di un classico gioco che esisteva, e lo voleva aveva avuto appunto l'idea, come tanti altri di quelli che si era inventato in quegli appunti sulle idee di che cosa posso giocare con un televisore. C'era anche questa idea del colpire il bersaglio, del tiro a piattello. Una nota divertente che non credo almeno io la conosco, perché ho ricercato tanto sui Pong eccetera, ma non la vedo quasi mai in giro. Considerate che tu, come hai detto tu, quasi tutte o almeno il 99% dei primi Pong degli anni 70 avevano tutti questa estensione della pistola, del fucile, sì, per giocare al tiro al piattello eccetera. Il Magnavox l'aveva, no? Tutti. Cioè, dal Magnavox prima, poi è sparita subito, stranamente, c'è stato un no te lo dico io perché è sparita, perché è una stronzata, no, perché è iniziata il perbenismo, cioè il fatto di Moige, diciamo. Esatto, i figli sparano. Infatti è molto meglio giocare a Call of Duty, entrare nell'aeroporto e sparare ai civili, però lo fai col joypad. Alla fine di metà degli anni 70, lo so, vabbè, però il concetto. Io pur non avendo fatto la violenza nei videogiochi è sempre stata. Time, una cosa divertente è che pochi sanno che la Philips produsse, e credo fu l'unica, una versione edulcorata del Pong con la pistola, dove al posto della pistola c'era una macchina fotografica E il gioco veniva chiamato Safari. Ecco. In pratica, Safari fotografico. In pratica, tu hai photo shooting. Esatto, al posto di avere la pistola, avevi in mano una macchina fotografica finta che aveva dentro lo stesso sensore della pistola, e dovevi fare le foto al quadratino che girava per lo schermo. Bello. Prenderlo al posto di. Piccola nota di ulteriore. E da qui abbiamo capito perché i giapponesi poi hanno fatto Fatal Frame. No, il problema è questo: che visto che lui ha citato questa cosa, io mi ricordo del Moige nel 1985, no, sì. Forse 87, no, era uscito una console Nintendo. E c'era questo Power Bazooka, lo zapper era una praticamente bazooka stellare, cioè il discorso è che era un gioco per cui era un'arma che appunto veniva puntata contro lo schermo, ma si diceva non è un'arma ed è un'arma collegata a un gioco stellare, cioè il fatto di non aver più la faccia, l'immagine di una pistola. Sì, infatti si chiamava zapper, aveva la forma di una pistola laser, proprio per cui era un, così un tentativo di distorcere, cioè, come di distogliere l'attenzione da quella che era un'arma vera. Però effettivamente ci pensavo, tutti questi giochi avevano inizialmente un'arma che era riconducibile. Io mi ricordo da piccolo avevo quello del Magnavo, c'era un fucile vero e proprio. Ma io mi ricordo avevo la Oklahoma, che era una pistola pallini ed era un'arma di metallo bella. E poi metteremo le foto. Io non sono mai stato guerrafondaio, ma è un giocattolo di fine anni 70 tipico. Mi ricordo una regolata e per un bambino di 10 anni era un'arma vera in mano di metallo pesante. Basta, non c'è più stata. Mi ricordo che insomma gente che sparava i gatti con le pistole ad aria compressa. E poi infatti l'Oklahoma era ad aria compressa, solo che io usavo quei gommini. Ma... Che hanno fatto più danni le pistole ad aria compressa che tante altre cose. Esatto. Va bene, io vi interrompo solo un attimo perché facciamo questo piccolo break classico che facciamo in archeologia videoludica, ascoltandoci ovviamente le stupidate che trova Marco Gualdi. Gettos in Google. Oh, c'è nessuno? Caccia miseria. Ma che è sto rumore tipo metallico? Che è? Chi è? Sono io, sono sempre io, eh. Guarda, sto qui sotto il reparto frigo. Frigo che? Frigo freddo. È freddo. Tutto un frigo qua. È reparto congelatore, come si chiama? Via, via qua. Ma via. Che è sto rumore? Pong, pong. Sto giocando a un videogioco nuovo. Si chiama Pong. Pong, eh. Bello, ti piace? Ah, ho capito. È 60 frame? Io sono venuto qua perché tu che stai qua dentro non lo sai, però è morto purtroppo Ralph Baer. No. Eh sì, noi ne abbiamo già parlato in archeologia videoludica, ne stiamo a fare la puntata. Eppure stava bene l'ultima volta che ho visto. No, non credo, però non... cerchiamo sempre di portare un po' di rispetto, insomma, minimo, non tanto. Ma io sono ghiacciato da questa cosa, forse è frigo. C'ha 90 frigo. E passa anni. Vabbè, ma allora. C'è un po' pure sta. Però devo dire che. Si è fatto due guerre. Ti ricordi, Sana, abbiamo parlato. Era quello che ha inventato il Magnum Ox Odyssey. Cioè, ha inventato. In realtà, lui ha inventato un modo per la Brown Box, un modo per costruire, per giocare sul televisore. E perché l'ha inventato? Perché dice, vabbè, c'è la televisione, perché la dobbiamo guardare passivamente? È vero. Andate a trombare. No, giocate a Pong. Non era Pong. Poi dopo, queste. Se non stai in piedi, senti, Siri, lì ti ho preparato un bel trono di ghiaccio. Sai, cioè, Siri, tu, io preferisco. Perché poi vengono. Le cose brutte, Sedere, insomma, vabbè, non ci metti una busta di piselli sotto, è che pure quella, pure quella ci fa bene. Allora, senti, quindi che ci racconti? Non lo so, io stavo a giocare a Pong. Mo, guarda, fammi una cosa, digitiamo qualche cosa a caso. Vediamo, ecco, aspetta che sposto il Pong, digita, vediamo un posto, guarda, vediamo un po', che c'entra qualcosa il Simon? Beh, sì, diciamo che lui. Simon Pong, oltre tu sei di al parla, videogioco, parla, Simon che... Pong, no. Simon Pong, Pong yeah. Pong, Simon è il nome e Pong è il cognome. Infatti è strano, c'è un cinese qui con del... No, allora lui era un ingegnere televisivo e lavorava con l'elettronica, non era un informatico, quindi lui dei computer non ne sapeva niente. Non sapeva neanche l'esistenza. Lui quando faceva le cose neanche esistevano i computer. E quindi ha inventato l'Odyssey, cioè la Brown Box, però poi alla fine ha inventato pure tanti giocattoli elettronici, molto semplici. E il Simon era uno di questi. Tu ricordi il Simon? Sì, non ci ho mai giocato, però è bello. Non ce l'ha mai avuto? No. Beh, bambino triste, però. No, ma non potevo avere il Simon. Eppure l'avrebbe fatto bene, visto che c'hai problemi di memoria. Forse è per quello che non mi hanno comprato, era inutile, perché... lo stesso tasto. Sempre lo stesso tasto, quindi... È triste questa immagine. Vabbè, è quello. Il mio gioco di primaria è quello. E vabbè, e quindi abbiamo trovato un link di uno. Sì, è bellissimo. Di uno che dice, cioè, di fare musica. Quando abbiamo trovato, pensavamo che fosse una cosa figa. Sì, perché c'era scritto Music with Simon. Forse Simon era il nome della persona che fa questa cosa. Comunque, ha preso un proto Simon. E lo ha smontato, non so, forse lo ha generato lui, non so, e si è messo a fare, diciamo, a pigiare i tasti a tempo di musica. Che cosa molto bella, vero? Io penso che questo fa talmente schifo che, mamma mia, no, vabbè, però la zozzeria, cioè, diciamo, era carina, perché l'idea era carina, però il problema è che lui gioca al Simon e ci ha messo una base musicale sotto, una base ritmica, quindi sembrava che fosse, e invece la zozzeria. È una cosa zozzeria. Vediamo che cosa. Se lo fa manda bene il Magnavox 2. Allora, diciamo che spieghiamolo al pubblico questo. Noi sul Magnavox 1 abbiamo cercato curiosità, cose. Poi probabilmente Paganini ce l'aveva bizzeffa. Però noi non. Vi facciamo sentire un attimo. Perché, ecco, diciamo, ci siamo soffermati sul Magnavox 2, che non c'entra niente. Però, insomma, è anche per continuare un po' a rinvangare quelli che erano l'epoca, no? Come i videogiochi d'allora. Che bello. Ma facciamo sentire tutto. Anche le pubblicità, spot, ma guardiamocelo pure noi, secondo lo spot. Che c'erano cose che arrivavano, facevano. Questo è uno spot portoghese. Eh sì, in portoghese. E qui comincia con questo uomo che si trasporta vestito da un incrocio tra vigile degli anni 60 e sbirro spaziale. E sbirro spaziale, esatto. Lui spara col dito e compaiono cose, poi tira fuori dalla saccoccia un cartraggio dello Stay 2, che praticamente è come se fosse una grattugia che si infila dentro. Sì, però c'ha la maniglia. Sì, perché deve essere estratto con forza. Insomma, questo sbirro spaziale continua a sparare la con le dita, che è molto bello. Escono fuori cose colorate, vedete che se vedete lo. Perché lo Stay 2 rispetto all'1 non solo aveva la logica, quindi c'erano, cioè, microprocessori dentro, una bella genere, a differenza dell'1 che invece era solo elettronico. E però era pure a colori, certo, per la correzza, poi soprattutto i colori proprio vividi, proprio, poi basta che gli sparavi col dito e veniva una cosa bella. Però c'è sta pure quest'altra cosa che sempre disse i due, ma in realtà non c'entra niente con, né con l'elettronica né con perché no, questo è importante per far capire bella. Le cose come era figo i videogiochi d'allora, poi digital dollore sto cazzo, guardatevi questo video dove c'è Quest for the Rings del Magnavox o Magnavox o che non è che ricorda un pochino il Signore degli Anelli, assolutamente po'. No, si chiama Quest for the Rings, mica Lord of the Rings. È completamente diverso. Sì. Praticamente c'è questo unboxing di questo gioco dell'81 che è favoloso, dovete guardare il video perché è stupendo, proprio c'è il cartonato, la mappa, il tabellone di gioco, le monetine, le monetine, cioè le rune. Le rune, poi noi non sappiamo bene come si gioca questo gioco, assolutamente non lo sappiamo, non lo sa neanche poi c'è lui. Un enorme manuale che ti fa vedere quello, questo è quello che tu ti immagini e questa è quella realtà, e questo è quello che appare ovviamente sul Magnavox, che così non ti sbagli, così non ti sbagli. Però questo è veramente un video che va visto, perché allora sul Magnavox 1 era ancora peggio, cioè nel senso gioco di carte, cioè dovevi, ne abbiamo parlato tante volte del fatto che i giochi quello che appariva sullo schermo era un'informazione che doveva essere completata con quello che tu avevi, quindi che ne so, il tabellone, le carte, i dadi, oppure i segnapunti, roba del genere, cose che ovviamente non potevano fare alcune macchine, e quindi dovevi farlo da te, che era divertente, un po' come quel gioco di calcio, c'hai idee, Football Fortunes, bravo, esatto. Quindi sì, c'era ancora, un giorno faremo l'unboxing di quello lì, sarebbe fantastico, insomma. E vabbè, vedete questo video perché veramente è particolare, c'è di tutto dentro, poi c'è veramente, insomma, le monetine, le cose, e poi c'è questa enorme mappa dove c'è una regione della mappa che si chiama Zombia. Zombia, provincia di Mortia, è bellissima anche questa, io vi consiglio di vedere perché è una cosa molto molto bella. Poi c'è lo spot originale, fammi finire il concetto, veramente digitando l'ora di sto cazzo, però in ogni caso c'è quest'altro video dove compare una giovanissima aspetta, te la giochi così, cioè, certo. È lo spot originale dell'Odyssey, è un po' triste del 73, esatto, è un po' triste, e c'è Catherine Janeway, cioè probabilmente non è lei, però o è la madre cioè, o la sorella più grande o la madre, perché pure lei non è che è giovanissima Catherine Janeway, però insomma nel 73 dovrebbe essere quasi una ragazzina, dovrebbe essere, insomma, quindi Beh, considera che io sono nato nel 72, quindi ho 40 anni, quella ce n'ha 60, potrebbe anche essere lei invece. Potrebbe in anche essere lei. Potrebbe anche essere lei, gli assomiglia una cifra, quindi se ma chi è qualcuno... Catherine Genoa? Catherine Genoa è... Catherine Genoa, come si chiama l'attrice? Kate Mulgrew. Kate Mulgrew. Se qualche esperto magari lo sa, ce lo comunichi, perché insomma secondo noi è lei. O meno ci piace pensarlo che è lei. E ci sono queste persone che si siedono davanti al televisore, appiccicano. Ma soprattutto lui, cioè lo sguardo che ha è incredibile, è quello di un ebete proprio davanti a qualcosa che lo irretisce, praticamente. Ed è stupendo. Quindi niente, il capitano Genova, prima di andare sull'Enterprise, giocava col Magnavox. E questo è veramente bello, insomma. E poi c'è un Homebrew. Che pure questo, ritorniamo, che non c'entra niente. Però noi stiamo palleggiando tra una cosa e l'altra. Però è carino, perché è un homebrew dell'Odyssey 2. Dice, chi è che si mette a fare l'homebrew del... quelli che fanno di tutti quanti, cioè sarebbe stato più strano a fare l'homebrew dell'Odyssey 1 con di un flipper volendo, cioè. Però in questo caso vediamo un gioco che si chiama Dawn, che non fa le battute, si chiama Dawn, ed è un tizio che praticamente deve scendere da un piano all'altro imboccando il buco giusto prima che il tempo scada, cioè prima che venga schiacciato. Questo, dice? Philips Videopack anche. Stiamo dando una sola con questo video. Probabile. Però è bellissimo il gameplay. Ma piace, io leggerei che cosa c'è scritto nel gameplay. Sì, vai su, fammi vedere. Smooth vertical scrolling, advanced character animations, insomma, si vede una cippa. Enhanced background on Videopack. Questo è il Videopack. Internet high score uploading addirittura. Quindi non so come cacchio funzioni, ma dice che praticamente si può collegare anche con internet. Se fosse vero. Secondo noi è una gran sola, è una gran cialtronata. Comunque è bellissimo, è un gioco veramente che va riscoperto, anche se fosse semplicemente di un altro sistema. Ma noi abbiamo scoperto, aspetta, non è questo. Allora, a parte che vi linkeremo, così c'è, anche questo c'entra poco, fino a un certo punto, e ci abbiamo giocato, però ci ho fatto una partita io. C'è l'emulatore online del Pong, così, giusto perché stiamo andando un po' a casaccio in questo. Ho perso 7-3, però c'era anche il fuorigioco, era uno dei gol, era diciamo viziato, l'ultimo gol che ho subito, secondo me, e poi c'era troppa inerzia nella mia stecchetta, che era una stecchetta enorme però mi sono riuscito a perdere ugualmente. Poi abbiamo trovato un sito invece che si chiama proprio Odyssey, com'era? Aspetta, ODM forse. Eccolo qua, magnavox-odyssey.com, che è secondo me un sito vecchio, non so quanto sia aggiornato, perché è tipo quei siti vecchi in HTML, dove però sembra che raccolga un po' tutte le informazioni sul Magnavox. Addirittura si trovano i manuali, si trovano gli accessori, la storia, cose di riferimento, la peggio i giochi. E c'è un fantastico, e anche questo sarebbe veramente. Non l'abbiamo sperimentato perché non avevamo né il tempo e neanche nella voglia, neanche i sistemi operativi, perché dentro sei vecchio. L'emulatore dell'Odyssey. E ci siamo domandati, come fai a emulare una cosa che non, appunto, allora, non aveva un una logica informatica? Prendi un pennarello, scrivi sullo schermo, fai le sbarrette e viene uguale, preciso. Sì, però l'emulatore deve emulare queste due cose che venivano mosse da dei diodi, fondamentalmente. No, bestemmia. Ma se era il caso del. Qui stiamo. È una puntata triste. Insomma, cioè. No, vabbè, anche questo, guardate, lo sapete, vecchi sistemi operativi tipo Windows 2000 o XP, proprio quello più scatenato. Altrimenti, DOSBox, praticamente questo emulatore dice che quasi funziona. Quindi, insomma, è incompleto, però è incompleto da 20 anni, quindi potrebbero finire. Lo rimarrà così probabilmente per sempre. Vabbè, detto questo, diciamo che non abbiamo altro, non siamo riusciti a trovare. Volevamo cercare delle cose. Tanta roba, però sì, in realtà esatto. Poca roba. Perché poi in realtà Bayer ha veramente costruito e fatto tante cose, ma sono particolarmente legate con l'elettronica. Abbiamo trovato l'ultimo video che stavamo dimenticando. Un brasiliano, vi metteremo questo link, praticamente ha fatto un hack sul un Simon cheat. Ma perché era un cheat? Sì, esatto, e lo ha messo praticamente lui contro un'intelligenza artificiale, contro un computer, sì, contro kit, esatto. Contro Kit, Michael. Contro Kit, dovrebbe mio. Michael, questo mi fa beep beep beep, fallo anche tu Kit. No, in realtà è, cioè, è come se Simon giocasse da solo, esatto. Gioca contro un computer, gioca contro un computer, e quindi più evoluto di lui, quindi una calcolatrice probabilmente sì, però purtroppo poi lì è una questione mnemonica, c'è poco da fare e quindi non lo freghi il Simon, e quindi vedi sto Simon che si autogioca andando sempre più veloce, ricordando un po' la scena di The War Games, insomma, quando lui comincia a giocare a Tris da solo, sì, a filetto, poi si ferma, dice ha imparato che non sempre si può vincere, si può anche pareggiare qualche volta, esatto, e quindi in quel caso cambiare gioco e care, vabbè, niente, vabbè, noi volevamo un po' sdrammatizzare in questo speciale che abbiamo fatto in poco tempo. Marco, insomma, se vuoi dire le ultime cose, così io esco, perché sai che qua dentro tu lo sai, insomma, che... guarda, io ti ho preparato la stanza per gli ospiti, stanza proprio, cioè, un quarto di bue, tu lo scansi e dentro c'è sta una cosina carina simpatica dietro al quarto di bue, al quarto del bue, dietro, terribilmente c'è sta l'angolino fatto apposta, tutto di ghiaccio. Poi c'è anche del ghiaccio. Però ti piacerà? No. Ciao. Ma caffè? Il caffè, guarda, se esci fuori lo prendo. Ciao, freddo, va bene lo stesso? Freddo, non avevo dubbi. Ciao. Perfetto, grazie Marco, come al solito, e andiamo in questa seconda mini parte, diciamo così, perché come abbiamo detto, sai, questo è un episodio che abbiamo approntato e anche, insomma, con grande stile, tutto sommato, all'ultimo, come fanno le grandi redazioni giornalistiche, è successo questo, dobbiamo fare lo speciale, ma noi lo abbiamo fatto perché in effetti abbiamo comunque il rispetto ed è una sorta di omaggio per... E che non avremmo voluto preparare queste... No, che vabbè, purtroppo... Ah, no, 92 anni è un coccodrillo quasi dovuto, però insomma... Esatto, diciamo, 92 anni, io diciamo sempre con rispetto ci puoi stare, insomma, no, mi dispiace magari, ecco, nel senso, perché comunque quando spariscono figure che comunque per noi sono importanti, perché fanno parte del racconto di quello che ci appassiona, che ci ha sempre appassionato, è un po' come vedere la storia che ti accade davanti per certi versi, che ne so, quando parli di Napoleone, lo sai che Napoleone è morto, insomma, nel senso che vabbè. Invece quando spariscono così persone che hanno fatto una storia, la storia di un qualcosa di così più di attualità, diciamo, ecco, ne stiamo parlando anche nel grande documentario che stiamo realizzando, no? Nel senso, quanto poi la storia, diciamo, degli ultimi 50 anni, 60 anni è già diventata storia, e quanto i personaggi sono diventati personaggi storici, insomma, quindi ci fa un po' effetto questa cosa, ed era comunque un omaggio dovuto. Allora, passando per Carlo, andiamo, insomma, vediamo gli ultimi risvolti, insomma, di quello che di quando è uscito l'Odyssey, e quindi quello che poi ne è conseguito, appunto. Sì, allora diciamo che lì ovviamente stiamo parlando di primi. Sono un po' impicciato, però va bene. Sì, no, allora, il problema qua è che come al solito una puntata nuova non basterebbe per parlare, esatto, di cosa, esatto, successe nel 1972, perché è un 1972 un po' l'anno zero. Succede di tutto, esatto. Succede di tutto, perché come come ho accennato prima, il videogioco ha tanti padri, quindi non è riconducibile a una sola persona. Bauer è uno di questi, è una persona assolutamente fondamentale nella storia del videogioco. Ma cosa succede nel 72? 72 è l'anno in cui esce sia la console finalmente della Magnavox, l'azienda che acquisì i diritti della Brown Box, dell'idea di Bayer, eccetera, esce sul mercato, sia l'Atari, quindi di Nolan, dopo il fallito tentativo di diffondere Space War, Computer Space nei bar, negli arcade, diciamo, quindi come gioco di divertimento al posto dei giochi elettromeccanici, riesce con Atari a uscire con il Pong, quindi più o meno lo stesso gioco ispirato, diciamo, al tennis, però già basato con una logica, quindi con TTL, quindi a livello, diciamo, che e col punteggio e tutto, quindi riconducibile a quello che noi conosciamo oggi come videogioco, quindi con dietro un computer o comunque una logica elettronica. E da quel momento diciamo che il mercato del videogioco esplode in mille direzioni: da una parte l'arcade e dall'altra parte il mercato home. All'inizio viene dominato, anche se in realtà c'era solo lei, quindi da Magnavox con l'Odyssey, e poi esplode quando Atari decide di uscire con la versione domestica del Pong, che poi porterà la causa appunto di di Baer contro Atari e contro tanti altri produttori. Ecco, una cosa che non ho detto prima e che volevo ricordare: dopo l'uscita sulle riviste di elettronica come costruirsi, diciamo, questi giochi sulla televisione, in Italia l'Italia fu una delle prime a produrre un clone del Magnavox, bellissimo, tra l'altro. Fu la Zanussi, per essere precisi, Playotronic, bravissimo, il Pingotronic, no? Cioè, c'erano tutti e due, c'era il Playotronic successivo. Playotronic era successivo, era già con microprocessore, TTL. Quindi già è con scritto i diritti di Magnavox, eccetera, eccetera. Mentre il primo, cioè il Pingotronic, era analogico, esattamente come il Magnavox, non aveva le cartucce, cioè non prevedeva la possibilità di avere diversi tipi di gioco, c'era soltanto, diciamo, il classico tennis, TV tennis, il classico Pong. Ping pong, ed è uscito nel 1974-75 tra i primissimi in Europa, insieme all'MK2 inglese, che era anche lui analogico, quindi è un clone del Magnavox uscito in Spagna, l'Overcal si chiamava in Spagna, che è sempre degli stessi anni, però quello spagnolo era proprio copiato, cioè avevano preso un Odyssey, l'avevano aperto, l'avevano fatto uguale e lo stavano vendendo. Gli hanno cambiato l'esterno, insomma. Non neanche, proprio anche il case esterno. Hanno detto copiamolo, punto e basta, senza pagare di più. Sì. Invece in Italia no, in Italia in realtà non era copiato, era basato sui circuiti elettronici che erano pubblicati sulle riviste di elettronica, era un remake, diciamo. Quindi era anche in questo caso dovremmo dire che abbiamo perso qualcosa. Modo. Perché era un progetto italiano con un know-how italiano, uno sviluppo italiano, che vabbè, no comment. Esatto, non solo, oltretutto era dal punto di vista stilistico, ecco, il design italiani, è bellissimo, ancora adesso è uno degli oggetti più anni 70 che si possono immaginare, lo metteremo nelle note. Aveva delle idee incredibili, come il fatto di riporre per esempio le manopole con i cavi all'interno del case della console, per non far vedere in disordine nei cavi fuori dalla corsa. Ma è bellissimo ancora adesso. Io ho il Playotronic, è di una linearità e di una pulizia. Il Playotronic è quello grigio, sì. È quello successivo, ma come stile, come design della console è identico al Pingotronic, che invece è quello arancione, il classico arancione anni 70, esatto. Arancione bianco. Bene, poi dopo il resto è storia, dai, diciamo così, poi da lì iniziamo a parlare di cosa è successo dopo. Benissimo, Stefano. Due cose e poi concludo. Il Magnavox, l'Odyssey, o meglio il modello appunto a partire dal 72, in realtà ha introdotto tantissime cose. Carlo, alcune ne ha accennate. Abbiamo parlato anche del controllo, diciamo, che c'era da parte di chi produceva i televisori, e soprattutto dell'attenzione, o meglio del fatto che non era politicamente scorretto mettere una pistola, ma era politicamente scorretto mettere un aggeggio che non funzionasse a pile, dato che si trattava di un giocattolo. E questa è una cosa divertente, perché la maggior parte delle prime console funzionavano anche a pile, alcune funzionavano solo a pile. Per noi è impensabile che una console possa essere collegata con le pile alla televisione. No, penso ci deve un reattore nucleare per la PlayStation. Esattamente quello. Però in realtà l'idea era questa, perché comunque erano dei giochi. Un piccolo dettaglio: dato che abbiamo detto che il dettaglio circuitale dell'Odyssey, cioè era fatta a TTL, a condensatori, a transistor, cioè a componenti discreti, neanche a TTL, però in realtà era digitale. E comunque la cosa più divertente era è che analogica, non digitale, era elettronica. E guarda che c'è una discussione su Bayer, lui insiste a dire, cioè questo è il punto, lui insiste a dire il fatto che in realtà per lui era già digitale, comunque è tutto nelle note, ma il punto è che le cartucce, perché questo affare aveva già delle cartucce, non contenevano delle ROM. Cioè no, degli interruttori. Era tutto nella macchina. Per cui in realtà la macchina faceva già tutto, non era altro che una serie di jumper, di switch particolarmente configurati, per cui ciascun gioco era già potenzialmente nella macchina. La cartuccia riconfigurava semplicemente la macchina già esistente per far funzionare il gioco. Ricordiamo però che questo nell'era di internet, cioè se fosse successo nell'era di internet sarebbe partita una class action di quelle esatto. clamorose. Infatti l'overkill spagnolo citato prima era uguale, al posto delle cartucce gli avevano messo una fila di interruttori, schiacciavi l'interruttore 1, 2, 3, allora era già tutto compreso, quindi ok, esatto. Me erano paraculi sti spagnoli. Va bene ragazzi, allora in conclusione c'è appunto la retro rassegna stampa di Morgan che appunto ci introduce abbiamo accennato del fatto dei che i videogiochi si portavano dietro i TV games si portavano dietro gli accessori per giocare. Questo non l'abbiamo detto, mi sembra, in puntata. Cioè, il fatto che, siccome il gioco di per sé non aveva un'intelligenza, c'era col gioco del gli overlay. Gli overlay da mettere sul televisore, cioè dei fogli di plastica da appiccicare sul televisore che davano l'ambientazione del gioco. E in più gli accessori per giocare, quindi il segnapunti per il tennis, quello di gioco delle carte aveva proprio le carte fisiche che dovevi usare insieme al gioco, il gioco quello per puntare aveva i dish di dischetti che funzionavano come delle monete, le fish praticamente, cioè c'erano tutti e questo era tutto dentro nella scatola dell'Odyssey e i vari accessori contenuti poi nelle scatole dei giochi extra che potevi comprare a parte. Un po' come se oggi con Call of Duty ti dessero l'elmetto. C'erano esatto. Fantastico. Non sarebbe male. Va bene, allora andiamo a concludere questa che è la puntata, diciamo questo ricordo, questo omaggio che abbiamo voluto fare come archeologia videoludica, archeologia informatica, a quello che oggi lo possiamo anche definire così, anche per omaggio appunto, colui che si definiva insomma l'inventore dei videogiochi, poi se in realtà è così o non è così appunto abbiamo anche discusso, insomma non è neanche importante. È bello anche magari il fatto che comunque è un personaggio che è entrato e ha fatto parte e farà parte insomma della storia, e è bello anche il fatto che se questi nostri podcast in qualche maniera servono anche insomma a rinvigorire, a riaccendere comunque la memoria magari di passaggi, di momenti, di eventi che potrebbero anche insomma non dico essere dimenticati, però insomma ecco insomma, c'è il nostro impegno è quello di non in tutta la loro interezza, esatto, il nostro impegno è quello di mantenere sempre viva insomma la storia dell'informatica e del videogioco, e proprio perché per noi è una vocazione, una passione, ci fa piacere farlo. Dicevo, chiudiamo con la retro rassegna stampa di Morgan che prende appunto questa grossa, enorme intervista a Ralph Baer. Ho deciso anch'io di Ralph Baer, Ralph Baer, perché ho deciso anch'io di prendere questa deriva, perché in effetti il nome in realtà è tedesco, quindi insomma non credo che i tedeschi direbbero beer. E questa intervista appunto Morgan la sintetizza, la estrapola, ma insomma gli dà comunque un filologico e ci presenta insomma in maniera più approfondita un personaggio che poi in realtà non è tanto differente appunto di quello che abbiamo raccontato adesso. E in conclusione facciamo una cosa che forse non diciamo, siamo un po' nel limite tra poterlo fare e non poterlo fare, ma lo facciamo sperando insomma che gli autori di questa intervista, di questo stralcio insomma di intervista che è apparsa su YouTube, non si arrabbino, Stefano, magari diciamo anche di che cosa si tratta, anche perché è l'idea che ci ha avuto Stefano sul fatto di dare la possibilità anche agli ascoltatori del podcast di ascoltare anche la voce, la sua voce, credo che sia la cosa più importante. È un'intervista molto breve, sono pochissimi minuti, e volevamo far sentire giusto l'incipit per la sua voce, e qui quando parla lui ha già 90 anni. Credo che perfetto, meriti tutto il nostro rispetto. Allora, poi la linkeremo chiaramente, linkeremo il canale YouTube dove ovviamente trovate poi l'intera intervista, Video Games Inventors, PBS, Digital Studios, penso siano poi gli autori, insomma, di questa grande intervista, che poi insomma faremo sentire appunto un pezzo. Detto questo, ringrazio Carlo Sant'Agostino. Grazie a voi, e poi quando vorremo faremo magari la puntata sulla storia del videogioco in dettaglio dall'inizio alla fine. Sarà un po' sarà un po' complicato dall'inizio alla fine, però insomma sappiate che se ci trovate tutti un approfondimento di quello ci rinchiudiamo in un edificio per dei mesi e lo facciamo in streaming, cioè che purtroppo a Carlo Sant'Agostino è entrato in IPN quando Archeologia Videoludica era già la seconda stagione, se non terza addirittura, perché sennò sarebbe stato la rovina. No sarebbe stato meglio, ma sarebbe stato anche più complicato, nel senso perché almeno, perché noi ammettiamo che la prima stagione, insomma, sarà una prima stagione un po' così, un po' farlocca su alcuni temi, probabilmente avremmo anche modo di ritornarci, ma non perché chi l'ha lavorata, insomma chi ha collaborato con noi o noi stessi abbiamo fatto degli errori, ma perché comunque avevamo forse ancora poco esperienza sul modo in cui potevamo esporre determinate informazioni, e quindi su alcune cose sicuramente ne ritorneremo, e grazie anche a Archeologia Informatica. Detto questo, grazie anche a Stefano, chiaramente. Grazie a voi dell'ascolto e grazie della puntata, che è ancora un modo di parlare di una cosa veramente interessante. Esatto, e ancora un saluto a Ralph, insomma, che ci ha aperto un mondo, diciamo così, se non altro è stato uno dei canali, insomma, che sta giocando da qualche parte, sicuramente. Da qualche parte, esatto. Quindi Morgan con la retrorassegna, poi ovviamente l'intervista che vi abbiamo detto, poi sigla e ci sentiamo invece allo specialone di Natale, che insomma è già in preparazione. Ciao a tutti e alla prossima. Cari amici di Archeologia Videoludica, bentrovati in questa puntata speciale della nostra retrorassegna stampa, puntata dedicata tutta a un personaggio che ha fatto la storia di questo media, ovvero Ralph Beer. Sfoglieremo le pagine della rivista Videogiochi del numero di agosto 2005, in cui lo stesso Beer si racconta e si toglie qualche sassolino dalla scarpa contro i suoi due avversari di sempre. Parliamo di Nolan Bushnell e Willy Higginbotham. Il concetto alla base dei videogiochi non è mutato di una virgola. Il giocatore compra una scatola da collegare al proprio televisore, il giocatore compra dei giochi da infilare in questa scatola, il giocatore si siede e manda dei segnali alla scatola e vede i risultati sullo schermo. Io sono l'uomo che ha inventato e brevettato questo concetto. Un concetto che ho partorito nel 1966, quando ero uno dei primi ingegneri televisivi al mondo e impiegato come capo ingegnere alla Sanders. Ma facciamo un passo indietro. Il luogo è la corte del tribunale di San Francisco. La data è il 13 giugno 82. Nolan Bushnell, fondatore ed ex presidente di Atari, è alla sbarra come testimone chiamato dagli accusati Activision. La questione è stabilire se alcune delle cartucce di Activision per la console Atari VCS infrangano i brevetti videoludici detenuti da Beer, della Sanders, dati poi in licenza alla Magnavox. Bushnell è stato chiamato per testimoniare a favore della difesa, ma è da precisare che sono passati quasi 10 anni da quando Nolan Bushnell aveva assistito ad una dimostrazione della prima console casalinga di Magnavox, l'Odyssey. Quando il giudice chiese a Bushnell cosa ne pensasse allora dell'Odyssey, Bushnell rispose: «Beh, ritenevo che fosse creato mediante circuiti analogici, non c'era punteggio e non credo che ci fosse alcun effetto sonoro. Si basava su vari overlay che, come sapete, coprono certe parti dello schermo. Il movimento era in effetti scoordinato e difficile da controllare, e mi sembrava che non fosse un'apparecchiatura da gioco soddisfacente. È incredibile l'effetto che possa avere 10 anni sulla memoria di un uomo, soprattutto quando ha una lama sulla testa e si trova in tribunale alla sbarra per sostenere un proprio socio in affari. Alcuni dei commenti negativi di Bushnell a riguardo del design dell'Odyssey erano di fatto leciti. La tecnologia di quel gioco era un po' obsoleta anche per quell'epoca, e io lo sapevo. Il 10 gennaio del 1967 avevo messo Bill Harrison a lavorare per qualche ora su un design che prevedeva l'uso dei circuiti integrati serie 7400 TTL come generatori di sincronia. Ho documenti che provano tutto questo. All'epoca Harrison e io concludemmo che questi circuiti integrati erano interessanti, ma ancora troppo costosi per un prodotto destinato al pubblico. Ci concentrammo così su componenti separati, come transistor, resistenze e simili. Lo stesso genere di parti che si trovano comunemente nei televisori. Quando concludemmo un accordo per una licenza con la Magnavox, eravamo già arrivati al 1971. Ma, al di là di tutto, il gioco di ping pong, o tennis per Odyssey, funzionava alla grande. Il movimento delle barrette che rappresentavano i paddle o le racchette era controllabile in maniera facile e affidabile. A seconda della direzione intrapresa, la palla poteva anche viaggiare a velocità leggermente diverse. Questo per via della circuiteria analogica non lineare presente nel sistema Odyssey e nel suo prototipo Brown Box. Questa fu una caratteristica che contribuì al gameplay, dal momento che permetteva ai giocatori più esperti di avvantaggiarsene. Una manopola per regolare la velocità della palla dava modo di giocare a diversi livelli di difficoltà. Dov'era quindi la validità alla base di quell'affermazione di Bushnell sulla incontrollabilità e sulla classificazione dell'Odyssey come un'apparecchiatura da gioco insoddisfacente? Risposta in breve: non aveva senso. La realtà è che i clienti trovarono il gameplay dell'Odyssey talmente attraente che comprarono quasi 100.000 sistemi nella stagione autunnale-invernale del 1972. Tra il 1972 e il 1975 vennero prodotti e venduti un totale di 350.000 unità. Bushnell, nel maggio del 1972, diede vita ad Atari, e una delle prime cose che fece fu assumere Al Alcorn, un giovane ingegnere che aveva conosciuto in Ampex. Bushnell incaricò Alcorn di progettare e costruire un semplice gioco di ping pong. Bushnell avrebbe preso quella decisione se non avesse assistito alla presentazione di Magnavox, dove aveva provato di persona l'Odyssey? Alcorn costruì anche una versione portatile di Pong, e Bushnell fece una mossa imprenditoriale di puro istinto. Decise di produrre Pong all'interno di Atari. Lavorando in Sanders, nel 1966, io avevo elaborato autonomamente l'idea di videogiocare su un normale televisore di casa. Non avevo mai sentito parlare di Space War o di altri giochi di Bushnell, ed essendo un ingegnere televisivo, inventare qualcosa che si collegasse a una TV e utilizzasse circuiti e componenti simili a quelli di un televisore era naturale per me. Dato che all'epoca c'erano oltre 40 milioni di TV solo negli USA, quest'idea mi sembrava una vera opportunità commerciale. In quel periodo era manager e capo ingegnere della divisione di progettazione e equipaggiamento alla Sanders, che era una grossa società dedita allo sviluppo di elettronica per la difesa e sistemi radar. Il lavoro sui videogiochi cominciò come un progetto secondario e ben presto produsse risultati utili. Quando Sanders depositò i primi brevetti della mia invenzione a metà del 1967, stabilimmo una volta per tutte chi fu il primo a ideare il concetto di giocare sullo schermo di un normale televisore, ovvero io. Quel brevetto non solo esprime i principi base dell'interazione tra una persona e un televisore, ma descrive nuovi generi ludici come simboli diversi che si inseguono sullo schermo e scompaiono quando vengono a contatto, giochi con le pistole che utilizzano tecniche fotoelettriche per individuare e colpire il bersaglio, schemi di gioco per giocare a quiz a risposta multipla e molto altro ancora. Le mie invenzioni e quelle di Bushnell si muovevano da prospettive e perseguivano obiettivi completamente diversi. Nolan Bushnell coltivava l'idea di inserire i videogiochi nell'ambiente delle sale giochi. La mia era quella di realizzare qualcosa di innovativo e fruibile su alcuni dei 40 milioni di televisori negli USA e sugli altri milioni di televisori sparsi nel mondo. Avevamo due visioni chiaramente diverse. Ma cosa ci fu di sbagliato nell'Odyssey? Nel 1971 la Brown Box, il prototipo, funzionava in maniera affidabile. E quindi perché ricominciare da zero? Quella decisione fece sì che Odyssey venisse costruito con tecnologia vecchia. Una volta che sia Odyssey che il Pong di Atari furono sotto gli occhi del pubblico, Atari, e Bushnell in particolare, si rivelò molto più efficace di Magnavox nella pubblicità. Per quanto riguarda ciò che vide il pubblico, la mia reputazione come inventore originale dei videogiochi non venne mai a galla. Da un lato c'era la mia naturale riluttanza, tipica degli ingegneri, a glorificare ciò a cui avevo dato vita. A rafforzare questa mia reticenza contribuì il fatto che, sebbene nei suoi primi due anni di vita l'Odyssey andò abbastanza bene per essere un concetto totalmente nuovo, i videogiochi non sembravano destinati ad avere quel successo che negli anni avrebbero invece ottenuto. Fortunatamente, per la memoria storica del sottoscritto, posti come il Museo di Storia Americana di Washington, il Museo Nazionale Giapponese di Scienza a Tokyo e il Museo Nixdorf in Germania hanno tutti la versione originale o una replica di un Brown Box del 68. Ma vediamo chi altri potrebbe contestare la mia paternità di questa invenzione. Nel 1949 il computer chiamato EDSAC usava tre schermi CRT speciali, uno dei quali mostrava gli 1 e gli 0 tenuti in memoria e poteva mostrare il contenuto di una delle 32 celle o sezioni. Nel 1952 uno studente, A.S. Douglas, escogitò l'idea di giocare a Tris usando lo schermo dell'EDSAC. Era sicuramente un gioco, ma ancora una volta non era un videogioco. La stessa cosa vale anche per l'altro sistema ludico, alquanto rumoreggiato, sviluppato da Willy Higginbotham. Nintendo portò Willy Higginbotham sotto le luci dei riflettori, facendolo testimoniare a proprio favore durante una causa intentata contro i nostri avvocati e il sottoscritto, allo scopo di annullare i nostri brevetti ed evitare di pagarne i diritti. Eppure gli avvocati di Nintendo, che provenivano da uno dei più costosi studi legali di New York, persero la causa e dovettero pagare. Ciononostante, il mito di Higginbotham decollò e come un genio fu riuscito dalla lampada circola ancora oggi. Ciò che accadde in realtà è molto semplice. Nel 1965 i National Labs di Long Island, presso cui Higginbotham stava lavorando da alcuni progetti sull'energia atomica, aprirono le porte per un giorno ad amici e parenti dei dipendenti. Si decise così di mettere insieme una dimostrazione divertente di quello che si definiva un gioco da tennis, qualcosa di interessante a cui i visitatori potessero giocare. Avendo a disposizione un'ampia gamma di computer analogici, progettò alcuni circuiti e mise un ingegnere al lavoro. Il risultato finale fu una serie di relè temporaneamente collegati attraverso una scheda a uno dei computer analogici della società. Questo collegamento ingegnoso tracciava una linea orizzontale sul suo schermo, un oscilloscopio Dumont modello 804. Quella linea doveva fungere da base per il campo da tennis. Una linea verticale corta, posta nel mezzo, serviva come una rete vista di lato. Premendo un tasto su un piccolo controller, si poteva lanciare la palla da sinistra a destra. Una manopola permetteva di controllarne la traiettoria. Premendo ancora il tasto, una volta che la palla aveva raggiunto la fine del campo, si poteva invertirne la direzione. Se non si premeva il tasto nell'istante appropriato, la palla scompariva dal campo. Non c'erano simboli per le racchette. Il gioco impressionò i visitatori. Finito l'evento, tutti i circuiti vennero smantellati e le loro parti finirono in un magazzino. Quei computer analogici degli anni 40 e 50 non erano economici e non potevano essere impiegati per compiti che non fossero quelli in cui operava la società di Long Island. L'intera storia sarebbe rimasta sopita se non fosse stato per il tentativo di Nintendo di interpellare quello che lei stessa ha definito alcuni esperti per decidere chi aveva inventato cosa, molti e molti anni dopo, quando i videogiochi erano ormai diventati una parola familiare a tutti. Anche in questo caso, Higginbotham aveva inventato un gioco, non ci sono dubbi, ma non era un videogioco. e non aveva niente a che fare col videogiocare sullo schermo di un'apparecchiatura raster scan, quale può essere un televisore o un monitor. Come Space War di Bushnell, era una dimostrazione divertente di come i computer potessero gestire e mostrare dei movimenti sullo schermo, e i tribunali la videro proprio allo stesso modo, e questo è stato appurato da decine e decine di altre sentenze. Purtroppo convincere i ludologi che io sono stato davvero il padre dei videogiochi è invece tutto un altro paio di maniche, è come lottare contro i mulini a vento. E su questa amara considerazione chiudiamo questa puntata della nostra retrorassegna stampa con un bel saluto da Morgan e un appuntamento al prossimo episodio. Ralph Baer. Well, I'm usually known as the inventor of the video game, particularly the console video game business. We built a succession of seven models, the last one of which we called the Brown Box because it was covered by brown adhesive paper. Then we went on a two-year trek trying to find somebody who would take a license and actually produce something. That turned out to be Magnavox. This is Odyssey, the new electronic game simulator. You attach Odyssey to your television set in seconds to create a closed-circuit electronic playground. The Odyssey sold quite well. About 100,000 was sold the first year in 72. By the end of life in 74, 350,000 Odysseys were in homes. Not a bad start. So several million people played video games by then. It's new from Magnavox. Odyssey. For the last 30 years, I've been doing toys and games, some of which became quite well known, like Milton Bradley's Simon game, for example. By and large, I'm in the same boat as other inventors. You know, we come up with a lot of stuff. Spend a lot of time developing and building things and marketing them, and if we're lucky, out of 10 or 15 items we do a year, maybe one or two of them wind up with a licensing agreement. My measure of success isn't a proper explanation of why I do what I do. First of all, my wife died in 2006. She died on a Friday. On Monday, the President of the United States hung the National Medal of Technology around my neck. She didn't make it. So here I am. We built this house 53 years ago. I've rattled around in it alone. So what do you expect me to do? All my friends, they're all gone. I've outlived them all. I'll be 90 in March of next year. So what am I going to do? I need a challenge. And I still get a big charge of making something work. I write the hardware, I push the button, I download it into the microprocessor, and it works. Ah. Beautiful. It's like I'm basically an artist. Right? I'm no different from a painter that sits there and loves what he does. Right? And would you ask a guy who's been painting all his life, why do you keep painting? Why don't you retire? Retire to what? I mean, stop painting? I mean, this is insane. I mean, why would you want to do that? Right? So here I am. Thank you.